Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sembra una mattina qualunque, se non fosse per l'orario e per le valigie, sparse per tutto il soggiorno. Un trolley grande, un trolley piccolo, uno zaino e la borsa. Caffè, biscotti, un bacio alla mamma che dorme, una carezza al cane e in macchina. Destinazione, aeroporto di Milano Malpensa e da lì Londra, per la mia nuova vita. Sono Margherita, ho 23 anni, vengo dalla provincia di Como, ma abito a Parigi. Mi piace il mare e mangiare. Certe notti per dormire mi metto a leggere e invece avrei bisogno di attimi di silenzio. Certe volte anche con te, e sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente senza una vera ragione. Sulle strade al mattino il troppo traffico mi sfianca, mi innervosiscono i semafori, gli stop e la sera ritorno con malesseri speciali. Non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita. Su divani abbandonati a telecomandi in mano, storie di sottofondo, Dallas, i ricchi piangono. Sulle strade la terza linea del metrò che avanza, le macchine parcheggiate in tripla fila e la sera ritorno con la noia, con la stanchezza. Non servono più eccitanti o ideologie. Ci vuole un'altra vita. E la sera ritorno con la noia e la stanchezza. Non servono più eccitanti o ideologie. Ci vuole un'altra vita. Potrebbe essere un venerdì qualunque, beh, mica tanto qualunque, potrebbe essere il venerdì dell'Immacolata, il giorno giusto per farsi una nuova vita. 349-238-6666. Oggi si parla di quella cosa lì, della cosa di cui parla Battiato in questa canzone, che magari non serve proprio partire e trovare una vita completamente nuova, magari basta cambiarla anche di un po' e scegliersi una vita nuova. Oggi vi racconto la storia di Margherita. Margherita è una ragazza che mi ha scritto un po' di messaggi a partire dall'anno scorso fino ad oggi e poi più tardi ve ne leggerò qualcuno. Lei è giovane, ha 23 anni e quindi tutto sommato se la sta facendo una vita. C'è qualcuno che però invece una nuova vita se l'è scelta, come Francesca, che mi ha scritto sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. Francesca, lavoravo in televisione, ero stanca, scontenta e sempre malata. Un giorno vedo un annuncio di lavoro ad Alba, cercavano un responsabile web e io, che odiavo la campagna, i colli e i monti, un anno fa sono andata a vivere lì e ho cambiato tutto tranne il fidanzato. 349-238-6666. Non so se cosa si fa esattamente il ponte dell'Immacolata adesso, vabbè, non starete ascoltando adesso, giusto? Se non state ascoltando, niente. Se state ascoltando invece e avete in qualche modo magari non proprio scelto una vita totalmente nuova, non l'avete completamente stravolta, se però avete preso e siete partiti e avete cambiato qualche piccola cosa nella vostra vita, qualche dettaglio che ve l'ha fatta virare un pochettino, 349-238-6666. Abbiamo trovato delle persone che sentiremo più tardi, però dopo la borsa, e che hanno fatto la cosa che ha fatto Margherita, che a un certo punto sono partite. Di fatto queste sono persone che hanno un'età relativamente bassa, perché di solito quella roba succede prima dei 30, più o meno, magari anche prima, no, qualcuno parte dopo, però questi credo abbiano tutti meno di 30 anni. Non serve però avere meno di 30 anni per avere cambiato la propria vita. Elena, mi sono scrollata di dosso la vecchia vita un po' di anni fa, naturalmente scontentando quasi tutti. Voi siete qui, @radio24.it, c'è anche un profilo Facebook, è sempre quello, che è Matteo Caccia, io sono qui. Questa però è la storia di Margherita. 3 ottobre 2007. Sono le 5, è ora di alzarmi. In realtà ero già sveglia, non da molto, da una decina di minuti, come mi capita quasi sempre. È strano, perché le rare volte che punto una sveglia apro gli occhi sempre qualche minuto prima che suoni. Boh, mi chiedo perché metterla allora. Ma tant'è, adesso non importa. Infilo la mano sotto la maglietta del mio ragazzo, che in tutta la sua stazza dorme a fianco a me da un anno, su un letto singolo. Gli accarezzo la pancia, la sua modesta pancia, e gli do un bacio sulla guancia. Non si fa pregare di alzarsi, sapendo quanto abbia l'ansia del ritardo. Ci infiliamo i vestiti già pronti sulla sedia e scendiamo in cucina a fare colazione. non è più il mio fidanzato, adesso sono felicemente single, però finché sono stata via siamo stati insieme anche parecchio tempo dopo. La prima notte ho pianto tantissimo nella sua maglietta sudata, poi ci siamo abituati. Sembra una mattina qualunque, non fosse per l'orario e per le valigie sparse per tutto il soggiorno. Un trolley grande, un trolley piccolo, uno zaino e la borsa. Caffè e biscotti, un bacio alla mamma che dorme, una carezza al cane e in macchina, destinazione aeroporto di Milano Malpensa. Non ricordo molto di quel tragitto, se non la canzone Change, Change, Change di Aretha Franklin, che parte dall'iPod in modalità brani casuali. Eccoci al check-in, lo sapevo, i miei bagagli pesano troppo, ma d'altronde è tutto assolutamente indispensabile. Pago 58 euro di sovrattassa, praticamente il doppio del biglietto. Un bacio lungo, prima dei tornelli. Un po' di lacrime. Poi lui mi dà una carezza sulla testa e mi dice «Buona fortuna, Sgurz». Sì, Sgurz. Lui mi chiama così. Lo so, non suona molto tenero, ma mi è andata così. Imbarco al gate 5, volo EasyJet 4596, destinazione London Gatwick. Mentre aspetto di salire, osservo i miei compagni di viaggio. Mi sembrano tutti tranquilli. Come se essere trasportati per aria ad oltre 10.000 metri di altezza fosse una cosa normale. Io me la faccio sotto in silenzio, mi guardo le All-Star e mi ripeto che sono troppo figa, che verrò ricordata al pub durante l'aperitivo e tutti saranno invidiosi della mia nuova vita. Organizzeranno weekend a turno per venirmi a trovare e io li porterò in giro per locali, gli farò vedere Londra come se fosse la mia città, gli racconterò storie straordinarie e poi li lascerò tornare alla loro vita qualunque. I posti sull'aereo con questa compagnia te li puoi scegliere tu. Tutti vogliono sempre stare davanti, che scendono per primi. Io invece preferisco il mezzo, che se bisogna fare un atterraggio d'emergenza e si prende una botta davanti, forse io mi salvo. E se qualcosa va a fuoco, dietro lo stesso. Sistemo lo zaino nella cappelliera sopra di me, la borsa sotto il sedile, allaccio la cintura e mi tengo tra le mani una boccetta di fiori di Bach. Bah, iniziamo a prenderne un paio. Passano 5 minuti, 7, 10, 15. L'aereo non parte. Vabbè, ma chi se ne frega di Londra, no? Chi se ne frega dei miei sogni da fricchettona? Chi se ne frega di imparare l'inglese? Mi slaccio la cintura e cerco la hostess. Mi scusi, io devo scendere. Al racconto della hostess su quanto sia magnifica Londra non ho il coraggio di insistere. Mi rimetto a sedere per pensarci ancora 5 minuti. Se poi vorrò ancora scendere, tarderanno ancora di più la partenza. Mi ridaranno i bagagli e potrò tornarmene a casa mia. Londra è stato un po' un caso, perché in realtà io volevo andare a Dublino, perché avevo già vissuto a Dublino prima e volevo tornare. Poi ero da sola e un'amica era a Londra, allora ho detto vabbè, vado a Londra. Ero proprio alla fase post diploma in cui non sai che cosa fare e dici vabbè, vado via almeno così forse imparo l'inglese e provo a vivere lontano da casa. Mentre aspetto che il quinto minuto scatti sull'orologio, i motori si accendono. Il volo passa senza voti d'aria, senza turbolenze o rumori strani. O forse è grazie a questa boccetta ormai finita. Dopo neanche un'ora e mezza, ci siamo. Guardo fuori dal finestrino tentando di scorgere la mia nuova terra e vedo solo nuvole viola. O questa terra è davvero fantastica o ho esagerato coi fiori di Bach. I don't feel the sun's coming out today. Staying in. Gonna find another way, yeah, yeah. And then I'll paint it up. Quando si pensa ad una nuova vita, spesso si parte. Ecco, Margherita è una che parte. Anch'io ho sempre pensato che fosse una soluzione partire. Quando avevo 20 anni pensavo che quello fosse l'unico modo per immaginare una vita, una nuova vita. Quando ne avevo 25 mi sembrava una fuga perfetta dalla vita che mi si stava per profilare davanti. A 30 invece mi sembrava ancora una buona alternativa quella di andarmene. Pensavo che qui non si poteva ottenere niente di quello che invece avrei potuto ottenere in un altro posto, qualunque esso fosse. Adesso un po' è cambiato, adesso penso che all'estero ci vado volentieri in vacanza magari, o a fare un weekend. Uno di quelli nelle capitali europee che fai volo e albergo a 150 euro più due notti. ma che partire non sia l'unico modo per farsi una vita. Penso che partire abbia senso se quella non è una fuga, perché la fuga non può durare in eterno, perché prima o poi tocca fermarsi, e quando ti fermi, i conti con quello che hai intorno li devi fare comunque. Alla storia di Margherita però io mi ci sono affezionato sin da subito, perché lei mi ha scritto più di una volta, mi ha raccontato diversi pezzi della sua vita e in qualche modo un po' mi sembra di conoscerla. Sapevo che voleva fare un corso di teatro perché voleva fare del teatro la sua vita, e sapevo che ora viveva in Italia. Poi però il giorno in cui ho cominciato questo programma, che era esattamente il 5 di settembre, lei mi ha scritto una nuova mail che diceva così: caro Matteo, oggi è il 5 di settembre ed è un giorno importante, o comunque a suo modo speciale, e lo è sia per me sia per te. Tu hai cominciato il tuo nuovo programma e io festeggio la mia prima settimana di vita a Parigi. Ho ascoltato prima il podcast dal sito e mi è piaciuta. Ammetto che ero un po' scettica riguardo a voi siete qui, forse perché sono un po' presuntuosa e penso che gli altri, se non i pochi scelti, non abbiano granché da dire. Forse perché nella mia idea una cosa che funziona non può essere cambiata e funzionare ancora. Invece mi ha stupita, mi ha quasi commossa. Sai, io ho iniziato una nuova vita a Parigi e mi sembra di avere già fatto un sacco di cose. In 7 giorni ho già fatto l'abbonamento alla metro, l'abbonamento alla piscina, la tessera del telefono. Ho conosciuto il barista sotto casa, ho fatto una figura di merda con il barista sotto casa. Ho trovato lavoro e imparato un po' di francese. Faccio la cameriera in un ristorante, almeno finché non comincia la scuola di teatro. Ieri il ristorante era chiuso, quindi ho provato prima ad andare a teatro, però ho capito che i siti francesi non sono così affidabili. E dopo ho ripiegato sui giardini del Lussemburgo. C'era il sole, ma di tanto in tanto qualche minuto di pioggia intensa e fine rompeva il cielo. Le persone sorridevano e si riparavano senza fretta sotto gli alberi. Una bambina faceva disegni con le castagne che trovava in terra, mentre un tizio sulla 60ina, coi capelli lunghi, grigi e ricci, suonava il sax, moleggiandosi da una parte all'altra come un pendolo. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Come spiegavo prima, Margherita è un'ascoltatrice che io non ho conosciuto, però di cui ho avuto notizie proprio per le mail che vi ho letto e che mi ha mandato, per i messaggi che ci siamo scambiati più o meno a partire dall'anno scorso. E quindi in qualche modo io mi ero un po' affezionato alla storia di Margherita e mi ha fatto piacere ricevere quella mail che mi ha mandato a settembre, il giorno dell'inizio del programma, e sapere a che punto era in quel giorno. Però adesso a questo punto voglio sapere dove si trova esattamente in questo momento. Pronto Margherita? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Senti, dove sei? Dimmi dove sei. Sono a Parigi. E sei a casa tua? Sì, in Opera. Sei a Opera. Ma senti, l'aereo ti è venuta di default oppure ce l'avevi già? No, diciamo che fingo molto, molto bene, che non arriva. Che casa hai? Una casa di studenti? È una casa tua? Condividi? No, ecco, condivido, però è una casa fantastica che mi è stata gentilmente affittata a poco prezzo da genitori, di amici, di parenti, eccetera. Previsione di permanenza a Parigi di quant'è, Margherita? Due anni, se tutto va bene, 2 anni. 2 anni perché mi racconti meglio che cosa fai, che tipo di scuola è, come ci sei arrivata? Che diavolo sto facendo? Sto facendo una scuola internazionale di teatro, Precisamente la scuola Jacques Lecoq, e appunto va bene solo 2 anni, però diciamo che la prima selezione è tramite curriculum, la seconda è dopo 3 mesi, quindi tra 1 mese e mezzo, e poi ci sarà un'altra selezione a giugno. Quindi quanti siete adesso? 2 anni, ma adesso siamo in 70. E rimarrete in? Cioè 30. Ne rimarranno, magari tu ne farai parte, cioè sicuramente ne farai parte, però 30. 30. Ma 30 già da giugno o... Da giugno. Quindi potrebbe essere che ti fai un anno oppure due, ma tu comunque hai in mente di fermarti un po' a Parigi a prescindere oppure sei lì per sì, la scuola? Tendenzialmente sì, almeno per imparare bene bene il francese, poi vediamo. E che cosa si impara alla scuola internazionale d'arte, come si chiama? D'arte drammatica, recitazione? No, di teatro. Cioè che corsi state facendo adesso? È prettamente una scuola di teatro fisico. Adesso vabbè, stiamo lavorando sulla maschera neutra e poi facciamo tutti i giorni analisi del movimento. Spieghiamo per chi non sapesse che cos'è una maschera e che cos'è il neutro, che cos'è la maschera neutra. Urca, qui mi metti seriamente in difficoltà. È una maschera che toglie l'espressione del viso e per cui tutto viene concentrato sul movimento del corpo che deve essere preciso. Quindi siamo belli su di improvvisazione in questa scuola, mi pare di capire. Sì, sì, esatto. Cioè, quindi si va lì e si provano delle cose in libertà. Sì, esatto, insomma, e si continua a sbagliare fino a che magari arriva qualcosa. Per mezzo secondo non fai la cosa giusta. Senti, ma sei contenta comunque, ti stai divertendo? Sì, tantissimo. E visto che appunto noi ci eravamo lasciati in realtà con te che partivi per Londra fino a... Quando è successo, scusa, il racconto che mi hai mandato? È successo nel 2007. Ok, sì. Quindi 4 anni fa. Cosa c'è stato in mezzo, Margherita? In mezzo c'è stato del monociclo, c'è stato un tentativo di università, c'è stata una convivenza, c'è stato un lavoro in un cinema. Poi quindi questa scelta di Parigi, del teatro di Parigi, la vivi come una nuova vita o come un tentativo di... Beh, sì, insomma, una nuova vita. Quanti anni hai, Margherita? Me lo ricordi? 23. Ah, ne hai 23, ok. Quindi, sentendomi io già anziano, in realtà sentendomi anziano da quando ne ho 23, ma essendo adesso veramente anziano, mi verrebbe da dire, insomma, hai tempo per scegliere, per capire, oppure hai già capito? No, non ho capito e, insomma, diciamo che la mia vita è sempre andata avanti a seconda degli eventi che mi capitavano e non penso che cambierà nei prossimi anni. Insomma, forse adesso ho preso una direzione un po' più precisa, però, insomma. Margherita, io ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata, ti faccio davvero un sacco di in bocca al lupo e a questo punto però fammi sapere come va avanti il tutto, mi raccomando. Va bene, dai. Ciao, in bocca al lupo. Ciao Margherita. Ciao, ciao, ciao. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato, Margherita è insieme a un gruppo di persone, per cui Margherita, la mia Margherita, Margherita Aina, in redazione mi ha scritto: Margherita Vitale è quella con la sciarpa blu. Quindi vi consiglio di andare a vederla questa foto sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. È un gruppo di ragazzi giovani che sono seduti, direi, su una riva della Senna, forse la Rive Gauche, che è l'unica cosa che so dire, perché l'altra è la Rive Duatre, giusto? Ma soprattutto, come mi indica la nostra Margherita, stanno tazzando alla grande. C'hanno delle bottiglie di Coca-Cola per mimetizzare il rum. In realtà sono, credo che siano gli studenti della scuola di teatro, quella che lei sta frequentando. La cosa divertente è che tutti stanno bevendo e stanno più o meno guardando nell'obiettivo. L'unica che non guarda, a volte in una bella sciarpa blu, è proprio Margherita. 349-238-6666, si parla di cambiare vita. Elisa, io sono rimasta, ma ho cambiato lavoro, sono rimasta nella stessa città, una nuova vita, in una città come Milano si può fare, da un paese piccolo, immagino, me ne sarei andata via. Non so se avete cambiato la vostra vita o non so se siete partiti per farlo. Oggi, in qualche modo, insieme a Margherita abbiamo deciso di raccontare la storia di persone che hanno preso e proprio se ne sono andate. Ed era arrivato un messaggio sul profilo del programma, sul profilo Facebook, era il messaggio di Francesca, che diceva così: io ho lasciato il posto fisso da giornalista per fare la freelance e migliorare la mia qualità della vita, non solo professionale. Non ho pianificato tutto nei minimi particolari, lasciando che occasioni e opportunità mi venissero anche incontro. Ora sono a Londra, città che amo da sempre. Ho qualche collaborazione e sto valutando altri lavori. Tutto può succedere. Trovo queste svolte molto stimolanti. Ci sono così tante cose da fare e da scoprire. Puntini di sospensione. Visto che mi mancavano un pezzo in questi puntini di sospensione, abbiamo deciso di chiamarla definitivamente e esattamente a Londra. Pronto, Francesca? Ciao. Ciao, come stai? Ciao Matteo, bene bene. Senti, sei a Londra in questo momento, dove ti trovi? Sì, Londra, abito adesso in una zona vicino a Wimbledon. E sei a casa in questo momento? Sì, sono a casa. Senti, che cosa fai esattamente? Cioè, nel senso che sei giornalista freelance, questo l'abbiamo capito. Hai delle collaborazioni per cose... Per l'Italia, eh? Per l'Italia, sì, perché poi nel momento in cui ho detto che sarei partita per Londra, da Milano non riuscivo ad avere collaborazioni, nel momento in cui sono partita hanno detto allora scrivi da là. Quindi probabilmente questo faceva già la differenza per quanto riguarda il mio lavoro. Immagino. Di cosa scrivi esattamente, Francesca, scusami? Di cosa scrivo? Sì. Cultura, design, arte. E quindi le riviste per cui lavori, quali sono? Diciamolo pure, chi se ne frega. anzi? Allora, il di Repubblica Web. Sì. E poi per Casa Facile di Mondadori per okay. il design. Ok, senti, ma come funziona? Che te le procacci tu le cose da scrivere oppure te le propongono loro? È una cosa a metà? No, le propongo io. Ok. Propongo io, poi non sempre magari deve essere su Londra, però non so, questo, il fatto che io me ne sia andata da Milano ha fatto la differenza evidentemente. Senti, si riesce a vivere a Londra da freelance, cercandosi lavori e facendo cose, diciamo, per cui non c'è una sicurezza banalmente? No, allora, con queste collaborazioni non ci vivo, diciamo, infatti sono ancora qui abbastanza a cercare di capire come può funzionare. La differenza che c'è a Londra rispetto all'Italia è che qui ho la sensazione che una possibilità, soprattutto per chi voglia anche reinventarsi, mm-hmm. è data a tutti. Se Senti. Vuoi mantenerti qui, se proprio ti butta male, vai a lavorare in un negozio. In Chiaro. Italia, soprattutto alla mia età, ho più di 40 anni, sei vecchia, non sei o qualificato, sei troppo qualificata. Insomma, qui dove vige un po' di più la meritocrazia, se tu hai voglia di fare non importa. Magari Senti, quanti anni avevi, Francesca, quando sei partita? Cos'era, l'anno scorso? No, sono partita quest'anno. Quest'anno, ok. Quindi non è vero che si parte solo prima dei 30? No, anzi, cioè è una cosa piuttosto diffusa anche tra quelli della mia età, soprattutto perché chi rimane a piedi adesso in Italia è secondo me un po' finito, per cui invece qui, ecco, cioè quello che ho scoperto quest'estate qui, quando ho parlato con un inglese, ho detto, sai, ho più di 40 anni, non so cosa fare, perché in Italia mi dicevano che ero vecchia, qua mi hanno detto, no, ma qui è un valore, per esperienza, per serietà e per professionalità, quindi siamo già su livelli diversi. Francesca, senti, io ti ringrazio moltissimo, ti faccio in bocca al lupo e magari ci sentiamo, mi fai sapere come va. Perfetto. Grazie ancora. Ciao, buona giornata Francesca, ciao. Grazie. Ciao. Abbiamo trovato però delle altre persone che non ci hanno scritto, ma che ha trovato di fatto Margherita, che credo siano un pochettino più giovani, immagino da quello che fanno. Il primo si chiama Davide, viene da Reggio Emilia ma sta a Stoccolma. Pronto Davide? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Grazie per essere qui innanzitutto. Senti, scusa, ma dimmi che cosa vedi intorno a te, sei per strada? Sì, sono per strada e cosa vedo? Ma un po' di gente. Quanti gradi ci sono? Ma in questo momento zero. Ah, ok. Da quant'è che stai a Stoccolma? Così, da tanto per... 4 anni, direi. Senti, cosa fai esattamente? Faccio il grafico web designer. E com'è che ci sei arrivato a Stoccolma? Ma dunque, seguendo la mia... Io lavoravo al tempo a Bologna, un'agenzia di pubblicità. La mia al tempo fidanzata, ragazza, ecco, venne qua a studiare, a fare scambio culturale in Erasmus. Io un po' per volontà di scappare, un po' per amore, venni qua e ci sei rimasto? Sono rimasto, dopo un anno lei purtroppo tornò a casa e io non seguì, ecco. Ma quindi la storia è finita? Quindi sì, la storia è finita. Tra l'altro, come direbbe il mio amico Bazooka, andare a Stoccolma con la fidanzata è come andare all'Oktoberfest con una Peroni sgasata. Sono anni che ne in tasca, assolutamente. Però senti, questa era veramente orribile, ti chiedo scusa Davide. Senti, scusami, dimmi con quanta facilità o difficoltà hai trovato a fare il tuo lavoro lì? Io non so, avevo una stella forse che mi seguiva, io ho iniziato a lavorare in un posto meraviglioso dopo 3 giorni che ero qui. Semplicemente come i vecchi immigrati italiani in America che andavano a suonare i campanelli per cercare lavoro, io feci lo stesso e il terzo giorno che ero qui non ben consapevole ancora di quello che stava succedendo, perché ero qua quasi in vacanza, suonai il campanello di questa agenzia, mi risposero, andai su in questo posto meraviglioso. Cioè, hai suonato il campanello? Suonando il campanello, e quando arrivai su, dopo aver fatto vedere il mio portfolio, i miei lavori eccetera, e il proprietario mi chiese se ero di Reggio Emilia e io risposi ovviamente di sì, perché aveva letto il mio curriculum. A Stoccolma questo? Cioè tu a Stoccolma, scusami Davide, hai suonato un campanello di un'agenzia di pubblicità, sei salito, gli hai fatto vedere i tuoi lavori e ti ha detto, ma tu sei di Reggio Emilia, in che lingua te l'hai chiesto? In inglese? In inglese, ma il proprietario dell'agenzia di pubblicità svedese aveva la moglie che lavorò a Reggio per 7 anni e quindi diciamo che la cosa... E quindi via, sei cominciato a parlare di che cosa? Di ravioli, di... No, perdonami, vero, sì, non di ravioli. Si va a dormire quando si va a Reggio Emilia, eccetera. Quindi. E lavori ancora lì? No, dopo un anno e mezzo mi sono messo in proprio da freelance perché mi ero un po' annoiato, ma... ho avuto una bella esperienza, diciamo. Senti, ma adesso quindi tu hai uno studio a Stoccolma oppure lavori in casa? Dove lavori? Come... Ho lo studio a Stoccolma. Senti, ho due o tre persone che lavorano per me, quindi va molto bene. Quindi, esatto, quindi questo volevo chiederti. Quindi va bene, si lavora, sei contento? Veramente, molto. Come si sta a Stoccolma? Beh, sì, è una cultura un po' diversa, insomma, come a livello di persone, di calore, di passione delle persone, bisogna un po' abituarsi, però per il resto si vive assolutamente molto bene, anche troppo, cioè, diciamo che ci si abitua troppo bene. Cioè che non hai intenzione di tornare in Italia in futuro? Al momento direi che non è tra le mie considerazioni. Senti Davide, io ti ringrazio moltissimo e in bocca al lupo per tutto. A te. Buona giornata, ciao, grazie, te, ciao. Ciao. Sentiamo, abbiamo trovato anche un altro ragazzo che sta da un'altra parte dell'Europa, direi, vive a Dublino, si chiama Sergio ed è un ricercatore in biologia. Pronto Sergio? Ciao. Ciao, come stai? Tutto bene, voi? Bene, bene, grazie per essere qui a fare questa chiacchierata, ma ti rubo veramente pochissimo tempo. Mi dici, tu sei di Palermo, Sergio? Sì, io no, Palermo, città trapiantato a Dublino. Ma conosci Pietro Lacorte, il nostro tecnico di oggi? No, Pietro, vi conoscete? Scusa, volevo fare questo siparietto, ma non è venuto, è stato orribile. Come ci sei arrivato a Dublino, Sergio? Ci sono arrivato dopo aver tentato per un anno di trovare un posto di dottorato in Italia. L'alternativa migliore era farlo senza borsa di studio. E siccome è un lavoro a tempo pieno come tanti altri, ho deciso di guardare all'estero e devo dire che non mi pento della mia scelta. Ma è stato facile quindi trovare Dublino? Diciamo che fuori è più facile trovare concorsi in cui la meritocrazia ha un senso. Da quanto sei lì? Poco più di un anno, questo è il mio secondo anno. E il tuo progetto è di rimanere lì quanto? Il mio progetto è rimanere qui per almeno per i prossimi 2 anni, poi chi lo sa, insomma, non è una carriera di quella in cui puoi programmare una vita stabile a lungo termine. Quello lo immagino. Vivi alla giornata. Quello è un po' il nostro grande club. Senti, quanti anni hai, Sergio? Io ho 27 anni. E che tipo di ricerca fai? Poi ti saluto. Io diciamo che la grande domanda a cui cerchiamo di rispondere è come le attività comuni dell'uomo, come la navigazione, riescano ad influenzare l'evoluzione di determinati animali. Io lavoro in particolare con un comunissimo pesce che troviamo nei nostri mari mediterranei, la castagnola. Guarda Sergio, e con questa io mi hai veramente ribaltato la giornata, sono veramente più felice di sapere che c'è qualcuno che anche per me, tutto sommato, cerca queste cose. Assolutamente, grazie a voi per darci voce. Sergio, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie, crepi. Ciao, avrei sentito tutti quanti. Oggi avrei sentito solo gente che lavora all'estero, però poi mi sentivo Federico Taddia e allora non era veramente carino togliergli il lavoro. Io però ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile la puntata di oggi, da Margherita che ha scritto il programma, a Tiziano Bonini, a Pietro Lacorte e a Margherita Ina. La storia di oggi era quella di Margherita e parlava di farsi una nuova vita. Quella di lunedì invece è la storia di Fabio e parla di confessioni. ...1999, sul finire di luglio. Una Golf scura percorre la strada tra Macugnaga e Piedimulera. Sono le 11 passate di sera. Buio lungo la strada, illuminata solo dai fari dell'auto, mentre un'innaturale nebbia tende a nasconderci i tornanti insidiosi. Nell'auto, due giovani ragazzi stanno tornando a casa, due colleghi, compagni di studi. La nebbia li nasconde. Uno dei due si chiama Pierre, l'altro sono io.